Roberta Torre, regista del film Riccardo va all'inferno. Roberta, ben ritrovata e benvenuta. Ciao, grazie, benvenuti a voi. Allora, per chi ci ascolta, che storia è questa? Allora, è un film musicale, la storia di Riccardo Mancini che dopo molti anni passati dentro un ospedale psichiatrico torna a casa ben deciso a conquistare il potere all'interno della sua famiglia malavitosa. Non è un film realista, lo dico subito, perché appunto la trama potrebbe trarre in inganno, ed è un Riccardo III trasfigurato e ambientato in una Roma immaginaria, non reale assolutamente. Senti, ti faccio i complimenti per il cast, per le scenografie, per i costumi. Come nasce questa alchimia? Ho cercato di riunire attorno a me tutta una serie di artisti, ecco, perché fondamentalmente di questo si tratta, di artisti che avessero voglia appunto di lavorare su un progetto così anomalo, in qualche modo anche legato molto al teatro, e in qualche modo siamo riusciti a lavorare bene soprattutto sull'immagine di questo Riccardo, che doveva essere antico ma contemporaneo al tempo stesso, e quindi i costumi sono stati lavorati su un'idea di film in costume, proprio come se fosse un film in costume riattualizzato nell'oggi. Senti, il progetto come è venuto fuori, come nasce? Allora, io avevo già lavorato a teatro su Riccardo III qualche anno fa, avevo fatto uno spettacolo a teatro con dei pazienti psichiatrici e degli attori, e mi era rimasta la voglia di portarlo al cinema, di farne una versione cinematografica, e quindi ho pensato di farne un film musicale e ho scritto la sceneggiatura, l'ho portata al produttore Paolo Guerra, che è un produttore anche lui piuttosto con un percorso piuttosto particolare, perché prima di fare cinema ha fatto moltissima musica, è stato il produttore musicale di artisti come Iannacci, come altri, e quindi ha capito insomma la voglia di lavorare sul musical che io ho sempre avuto e continuo ad avere e quindi è stato molto entusiasta di questo, e siamo passati alla scrittura della sceneggiatura. Poi abbiamo pensato a un grande artista da coinvolgere, qualcuno che potesse interpretarne il personaggio principale, quindi Riccardo, e l'idea è stata quella di coinvolgere appunto Massimo Ranieri, cercando di in qualche modo lavorare su delle tonalità vocali che non aveva mai avuto prima. Quindi questo è un Riccardo ovviamente che ha una voce molto bassa e un tono molto diverso da quello del Ranieri che tutti conoscono, e lui è stato subito entusiasta di esserci e di partecipare, e subito dopo questo ho pensato a una regina madre che potesse essere un antagonista degna di tale figura, e quindi ho pensato a Sonia Bergamasco, che anche lei aveva precedentemente ha lavorato tanto in teatro, quindi insomma, certo, è stata certo attenta a questo personaggio della regina, attenta a una trasformazione che è stata molto complessa, perché è una regina molto anziana quella che si vede nel film, e indubbiamente l'abbiamo ottenuto lavorando su una trasfigurazione proprio di trucco, di postura. C'è un grandissimo lavoro antinaturalistico a tutti gli effetti. Sì, sì, sì. Senti, la musica? Dunque, le musiche di Mauro Pagani sono venute lavorando sui testi del Riccardo. Proprio lui ha fatto per esempio una canzone tratta dall'Inverno del nostro scontento, il pezzo diciamo più famoso del Riccardo III, quello che conoscono sicuramente quasi tutti, l'ha fatto diventare proprio una canzone che canta Riccardo proprio all'inizio del film, appena uscito dall'ospedale psichiatrico. È stata una grandissima scommessa e è stata anche una grandissima sfida, perché indubbiamente per uno scrittore, per un compositore, lavorare sui testi di Shakespeare e renderli canzoni è insomma un bel impegno, e Mauro ha fatto un bel lavoro, un grande lavoro di scrittura e poi appunto un bel lavoro anche ovviamente musicale, un grande lavoro musicale. Lui con Massimo aveva già lavorato tanto tempo per tante altre operazioni, quindi è stato anche un complice nel cambiarlo, nel renderlo comunque un personaggio molto diverso dal Massimo Ranieri solito, nel fargli interpretare queste canzoni con una voce molto molto lontana dalla sua solita, ed è stato appunto un bel viaggio che abbiamo fatto anche insieme in questo. Senti Roberta, rispetto alla tua lettura di Shakespeare e al tuo precedente teatrale, qual è il tuo punto di vista sulla follia? Allora, il mio punto di vista sulla follia è appunto quello, direi, per dire una cosa alla Basaglia, visto da vicino nessuno è normale, no? Quindi questo è sempre, secondo me, molto vera, questa cosa è sempre molto valida. È chiaro che poi la follia si inserisce all'interno di tante situazioni diverse, la più pericolosa forse è quella che noi viviamo nella normalità, un'apparente normalità che invece sottenda una follia profonda di base. E in questo Riccardo c'è anche molto questo aspetto, perché c'è appunto anche una follia familiare, sì, che è spesso molto presente nelle relazioni, le relazioni affettive all'interno di ogni famiglia. Io ti abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Ciao Roberta, ciao.